Scuola in controluce. Stanno per entrare. Piano, piano. Ecco, partita l'occupazione al Pezzullo. Eccola qua, cronaca di un'occupazione, in questo caso dell'Istituto Pezzullo di Cosenza. Ma le occupazioni sono un classico ormai dell'autunno, le raccontiamo tutti gli anni. Allora la domanda che vi facciamo oggi è questa: si tratta di un esercizio di democrazia per i nostri studenti o solo di un atto di violenza nei confronti di chi invece vorrebbe un regolare svolgimento delle lezioni? Se volete dirci la vostra, potete scriverci un SMS al 349-238-6666 e noi andiamo subito a collegarci invece con una delle tante scuole occupate. In questo caso parliamo del Liceo Classico Socrate di Roma. In collegamento con noi c'è Laura Notaro. Buongiorno Laura. Ciao, buongiorno. Allora, voi avete occupato quando? Il 15, giovedì scorso. E che cosa state facendo in questi giorni? Allora, stiamo organizzando ogni giorno dei momenti di discussione sui temi della scuola, che poi sono le motivazioni per cui abbiamo deciso di intraprendere una mobilitazione di questo tipo. E poi ci sono anche altre attività, perché ci teniamo a che la scuola continui in qualche modo a funzionare anche se è occupata, per cui ci sono sia iniziative su materie curricolari, quindi spazi per dare e ricevere ripetizioni, gruppi studio sulle materie del nostro corso, ma anche corsi alternativi che quindi trattano di altri temi. Laura, tutti d'accordo lì al Socrate? Cioè voi studenti siete stati tutti d'accordo? Perché insomma in un'altra scuola, sempre a Roma, al Tasso, invece gli studenti si sono divisi. Sì, ho letto. No, da noi il dibattito è stato diverso, perché la stragrande maggioranza ha votato a favore. Quindi tutti d'accordo, grosso modo, insomma, non ci sono state tensioni fra voi studenti? Sì, voglio dire, non ci sono state particolari tensioni, anche se appunto esiste ovviamente una parte che non era a favore, però quello che noto è che anche chi ha votato contrario si è astenuto, sta comunque partecipando. Ecco, invece il preside? Il preside ovviamente ha dei compiti, quindi è suo dovere di stabilire il regolare svolgimento delle lezioni, però è una persona estremamente tranquilla e ragionevole e di certo non è il tipo di preside che chiama la polizia e fa sgomberare violentemente una scuola. Okay. Perché Laura, stiamo parlando tutti i giorni con i professori e il preside. In qualche modo mi dicevate che insomma quest'anno, col fatto delle 18 alle 24 ore, anche la classe insegnante è in qualche modo solidale con voi. Andrea Frangiamore, della Rete degli Studenti Medi. So che dare un numero non è facile, ma quante sono le scuole occupate in questo momento? Sì, ciao, guarda, le scuole occupate da oggi cominciano a essere centinaia, ma registriamo anche tantissime scuole in regime di autogestione e di cogestione. In attesa della manifestazione, la nuova manifestazione, quella di sabato, insomma, sperando che non ci siano poi gli incidenti che ci sono stati anche il 14. Antonino Petrolino, direzione nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, insomma non c'è unanimità fra i presidi, perché ci sono alcuni che insomma, ad esempio abbiamo citato il caso del Tasso, la preside ha chiamato i genitori perché se andassero a riprendere gli studenti, soprattutto quelli più piccoli, perché non poteva garantire un regolare svolgimento delle lezioni. Petrolino, la domanda la faccio anche a lei: è un esercizio di democrazia questo, nei quali i nostri studenti insomma si abituano ad usare i vari strumenti, no, della democrazia appunto, o solo un atto di violenza nei confronti degli altri studenti? Ma vorrei dire nell'uno o nell'altro, non è un esercizio di democrazia nel senso che questo termine ha nella nostra realtà costituzionale, perché la democrazia si esercita attraverso forme rappresentative e mediazioni diverse da quelle come quelle che si osservano nel caso di una autogestione o di un'occupazione studentesca. Non è neppure generalmente, per fortuna, un esercizio di violenza, certamente è un uso del tempo alternativo, uso del tempo che non necessariamente e più vantaggioso di quello tradizionale. Ecco, che deve fare un preside quando i propri studenti occupano, perché ci sono insomma alcuni che sono più accondiscendenti, altri meno? Guardi, questa è una materia non regolata, cioè non c'è nessuna norma che dica che cosa un preside deve fare, si regola a vista. La grande maggioranza dei miei colleghi in casi del genere stabilisce una specie di linea rossa molto sottile, molto elastica, che passa tra la violenza attiva e la violenza passiva, se così posso dire. Cioè, finché non ci sono episodi di violenza sulle persone, finché non viene impedito a nessuno di fare eventualmente lezione, se vuole fare lezione, di norma si tollera, e per un tempo diciamo accettabile, nel senso non si potrebbe certamente lasciare che la didattica fosse interrotta per un mese. Per qualche giorno si cerca di evitare di prese di posizione drastiche, da un lato per consentire ai ragazzi di esprimersi e evitare radicalizzazioni di posizioni che non gioverebbero a nessuno, e dall'altro per cercare di controllare la situazione. Certo, certo. Frangiamore, se la cosa scappa di mano, allora bisogna ricorrere a sistemi diversi, ma nessuno di noi ce lo augura. Certo. Frangiamore, dicevamo della manifestazione di sabato, sappiamo come è andata a finire quella del 14, ci sono ancora code. Come potete assicurare in qualche modo che non ci saranno atti di violenza? Ma guardate, la questione è differente. Nel senso, noi abbiamo visto il 14 novembre, è vero, ma io ricordo che il 14 novembre in piazza, per esempio a Roma, c'erano più di 50.000 studenti, e non credo che siano 50.000 studenti tutti a fare gli scontri. Dico anche che noi abbiamo fatto il 17 novembre, per esempio a Palermo il 17 novembre è stata la risposta a chi il 16 aveva fatto gli scontri, una manifestazione molto partecipata, è pacifica, che portava in piazza i contenuti del mondo della scuola, del mondo degli studenti, e soprattutto affermava un concetto, che noi siamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, e dalle scuole, dalle università vogliamo ripartire per costruire questo cambiamento, che è un po' lo slogan di questa occupazione. Certo, una settimana di vacanza, motivazioni strumentali, la democrazia è un'altra cosa, uno degli sms che ci sono arrivati. In Italia sempre la solita storia, eccetto poche eccezioni, sempre i soliti fannulloni e somari, ditelo senza nascondervi. Questi alcuni dei messaggi che sono arrivati tramite sms, ma ora vogliamo dedicare il nostro consueto spazio all'orientamento. Torniamo dunque su un tema su cui stiamo scaldando i muscoli in vista del nostro speciale del 17 dicembre: come scegliere la scuola secondaria superiore, come scegliere fra licei e istituti tecnici. Molte le famiglie in questo periodo sono alle prese con questo argomento, e noi cercheremo di aiutarvi in questa scelta il 17 dicembre nel nostro speciale dalle 21 alle 23. Confindustria già da anni è impegnata nelle scuole per spiegare ai ragazzi che ci sono molte alternative ai licei. Questa settimana parliamo di Lombardia e lo facciamo con il presidente di Confindustria Lombardia, Alberto Barcella. Siamo un paese con una impressionante disoccupazione giovanile, e nello stesso tempo alcune figure professionali vengono affannosamente cercate dalle imprese. Per esempio c'è tutto il settore dei periti meccanici, che è difficile da trovare. Ma sono difficili da trovare anche delle figure professionalizzate di livello magari inferiore al diploma degli istituti tecnici, che si fa molta fatica a trovare. Quindi ci sono dei settori che vengono veramente trascurati dalle famiglie, o erano trascurati fino a poco tempo fa, perché la crisi sta spingendo molte famiglie a fare delle scelte più conservative. Gli istituti tecnici permettono al termine del quinto anno l'inserimento nel mondo del lavoro, ma nello stesso tempo permettono anche il proseguimento degli studi, e quindi molte famiglie, proprio per la crisi, si stanno orientando su scelte che offrano la possibilità impegnarsi immediatamente nel mondo lavorativo oppure di continuare gli studi. La nostra discussione sulle occupazioni prosegue sulla pagina Facebook Scuola in Controluce. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo, come sempre alle 13:30.